9 in punto, la versione di Oscar. Oh, buongiorno, buongiorno cari ascoltatori, buon 16 maggio, mercoledì, buon Ubaldo, è Sant'Ubaldo oggi, quindi a tutti coloro che portano questo nome. Io ho un amico particolarissimo, un giornalista con cui ho lavorato molti anni insieme, straordinario, che si chiama Ubaldo, quindi auguri anche a lui, se la passa un po' malino, vediamo di dargli una mano. Ma detto questo, oggi la puntata è dedicata a un paradosso. Qual è questo paradosso? Il paradosso è quello di una delle ragioni concomitanti a quelle del credit crunch bancario e concomitanti al fatto che tutti sono diventati cattivi pagatori, e in primis lo Stato, per inciso. Che bellissima giornata ieri, in cui di fronte a tutta la filiera delle costruzioni italiane, all'ANCE, alle cooperative della Lega nel settore edile, alle piccole imprese edili di confartigianato, ai professionisti del settore, gli ingegneri, gli architetti, alle imprese che stendono i manti stradali e l'asfalto, ci siamo presi la soddisfazione di dire con il presidente dell'ANCE Buzzetti che portiamo lo Stato alla sbarra, perché uno Stato che non paga i suoi debiti e che non liquida i suoi crediti fiscali è uno Stato che viola l'ordinamento, che dovrebbe preservare, quindi è uno Stato ladro a tutti gli effetti, e bisogna usare le armi dell'ordinamento, cioè i giudici e i tribunali, per portarlo alla sbarra, rispondere coi decreti ingiuntivi. Che soddisfazione vedere che finalmente quello che da mesi purtroppo descriviamo come una necessità diventa, con rammarico e con senso della misura, purtroppo la declinazione che le associazioni d'impresa, anche in Confindustria, ritengono di dover fare per evitare ai loro iscritti, associati, dipendenti e collaboratori di continuare ad andare per strada per colpa dello Stato, non di altri. Ecco. Allora, il paradosso è questo. Domani il Presidente del Consiglio Mario Monti va in visita ad Equitalia, e questa visita nasce dal fatto che Equitalia si è trovata esposta sempre più pericolosamente nei suoi uffici, nei suoi dipendenti, nei suoi vertici, a ricevere prima pacchi bomba, ve lo ricordate, poi via via qualche episodio in cui sì, i contribuenti esasperati sono passati alle mani, poi assalti alle sedi come è avvenuto a Napoli, poi bombe molotov come è avvenuto a Livorno. Di fronte a questo, Attilio Befara ha ritenuto opportuno, il capo di Equitalia ha ritenuto opportuno levare una voce dicendo: beh, non è possibile che noi rimaniamo esposti a questa reazione crescente degli italiani, perché le norme in base alle quali noi agiamo non le abbiamo scritte noi siamo degli esecutori, e io ho sempre aggiunto degli ottimi esecutori, degli ottimi organizzatori. L'intero impianto della organizzazione si deve ad Attilio Befara, agli uomini che con lui lavorano da molti anni, confermati da destra a sinistra perché sono bravi. E Attilio Befara ha dovuto protestare e ha dovuto far capire al governo e alle istituzioni che non potevano essere lasciate sole, perché il problema era molto serio, perché gli italiani avevano su alcuni punti ragione, perché molte proposte di legge per la compensazione, cioè per un fisco più equo, diciamo così, erano in Parlamento da anni e non venivano approvate. Per questo il Presidente del Consiglio domani si smuove e va a rendere il giusto omaggio e la più che giusta solidarietà agli uomini di Equitalia e a chi li guida. Va bene, ma agli italiani, per quello che leggiamo nelle migliaia di lettere arrivate qua a disperati.mai@radio24.it e ancora ne arrivano a distanza di settimane, a loro, per cose come queste che sono scritte qui nelle lettere, ma scusa, chi chiede? Questo paradosso è un paradosso che diventa sempre più difficile, perché mentre gli spread stamattina sono a oltre 450, vedete quando mi criticavate per i DORS, forse un po' di cognizione dei mercati qui a Radio 24 purtroppo l'abbiamo, e di come i mercati facciano bene a non fidarsi dell'europolitica che ha fatto ridotto il problema greco in 2 anni e 7 mesi nell'esplosione dell'euro, e mala tempora currunt per l'Italia, peggio sarà purtroppo. Ma in tutto questo io non vorrei che, mentre le condizioni dell'impresa e del lavoro italiano vanno, come abbiamo visto ieri, un meno 0,8% nel primo trimestre, che significa proiettato su base annua potrebbe significare anche un meno 2,5%, meno 2,7%, meno 2,8% di PIL quest'anno, quindi con meno 3,2, meno 3,4 di consumi reali pro capite. Ecco, siccome questo è lo scenario, io non vorrei che adesso però ci fosse una reazione classica italiana, cioè Nei giorni in cui questi criminali delle Brigate Rosse dicono l'ora della rivoluzione mano alle pistole, e nei giorni nei quali gli anarchici informali collegati con la Grecia hanno sparato al manager di Ansaldo Nucleare dicendo faremo altri attentati, io non vorrei che si scatenasse adesso una reazione del tipo chi critica lo Stato sta con le BR e sta con chi spara. Tanti anni fa Leonardo Sciascia disse né con lo Stato né con le BR, e io fui tra coloro che polemizzavano molto con lui, perché il problema era che lì c'era una scelta tra chi insorgeva in armi con lo Stato e la difesa dello Stato in quanto tale, della legalità dello Stato, della legalità dello Stato, perché all'epoca questo era in questione, quando si uccidevano manager, giornalisti, magistrati, sindacalisti come Rossa e quando si rapì il presidente del Consiglio italiano. Lì era un attacco alla legalità dello Stato. Oggi io rifiuto di dover stare zitto perché ci sono dei criminali che prendono le armi, che sparano, e credo di dover continuare a criticare lo Stato nella sua illegalità, nel suo fatto di essere ladro. In questo io credo che la missione di un buon liberale, di un buon amico del lavoro, della civiltà, del lavoro e della coesione tra lavoro e impresa, debba durissimamente criticare questo Stato. E l'unica maniera per indurlo a cambiare marcia di politica economica, ci sia l'euro o non ci sia l'euro, per abbattere il debito con quello che ha nel suo portafoglio e non prendendo dal nostro, e diminuendo la spesa corrente per far diminuire le tasse. Solo con una critica durissima a questo e alle procedure illegali, asimmetriche, seguite da uno Stato che prende per sé quello che può e però non paga quello che deve, noi potremo contribuire in maniera legalitaria a cambiare dal basso questa politica economica. Dire chi critica lo Stato, chi dice che lo Stato è ladro, è sullo stesso piano dei terroristi, se questa sarà la china, io questa volta non mi piego. Non mi sento in contraddizione con le critiche che espressi all'epoca a Sciascia, che diceva né con lo Stato né BR, perché si trattava dell'attacco a magistrati, a uomini di Stato, a uomini della stampa, a uomini del sindacato. Qui noi critichiamo invece lo Stato ladro, non lo facciamo con le pistole, non lo facciamo con le Molotov, condanniamo durissimamente chi lo fa, ma continueremo durissimamente a farlo. Questo è poco ma è sicuro, perché crediamo di avere ragione. Invito tutti a leggere un librino che oramai ha 140 anni, che scrisse Herbert Spencer, il grande sociologo della prima rivoluzione industriale, da cui Alfred Marshall trasse i convincimenti per scrivere i suoi principi di politica economica, in cui già allora e in quel libro trovate tutta la migliore risposta alle stupidaggini marxiane che indicano invano che il mercato fatto sulla libertà e la concorrenza si autoribalta. Ecco, non è così. Allora Herbert Spencer, che era una persona legalitarissima della Gran Bretagna vittoriana, eccetera, eccetera, scrisse questo uomo questo libro perché era molto preoccupato del fatto che stesse diventando lo Stato troppo invasivo rispetto alle libertà e alle tasche della gente. Pensate, all'epoca la pressione fiscale era poco più del 4%, viene da ridere rispetto adesso. Il libro si intitola The Man vs. the State, l'uomo contro lo Stato, ed è un inno liberale al diritto naturale di auto-organizzarsi quando lo Stato travalica e diventa lui ladro, lui illegale. E c'è una pagina, è capitato di mandarla a un componente di questo governo che ci rimproverava di essere troppo duri, e dico rileggiti questo santo libro legalitario liberale. In questa pagina che gli ho sottolineato dice a un certo punto che viene un punto oltre al quale, quando lo Stato travalica l'ordinamento che dovrebbe presidiare e quando da fonte della legalità diventa primo violatore della legalità e da guardia si fa ladro, testuale parole, da guardia si fa ladro, bene quel giorno occorre che la politica e le istituzioni ricordino ciò che dalla Glorious Revolution, quella del 1688, non quella di Cromwell, la grande rivoluzione liberale, a oggi è la grande storia del nostro paese, scriveva nella Gran Bretagna vittoriana. Quel giorno il popolo dovrà ricorrere alla legge perché lo Stato, le istituzioni e la politica tornino a piegarsi alla difesa di un ordinamento che hanno travalicato, e la politica ricordi, perché se la legge non bastasse c'è sempre il diritto alla spada. Allora, state attenti, perché io cito questa pagina dopo avervi detto la cosa delle Brigate Rosse, perché questo diritto alla spada non è il diritto a farsi giustizia da solo, non è il prendere le armi contro lo Stato, non è tirare le Molotov, non è mandare i pacchi esplosivi all'Equitalia, è semplicemente il diritto che sta solo nel popolo a cambiare dalla fondamenta l'ordinamento, a cambiarne le istituzioni, la politica, non solo a cambiare chi ha le elezioni vince rispetto a chi ha perso perché ha mal amministrato e fatto crescere troppo le tasse, ma significa il diritto costituente ab origine dell'intero patto sociale. Ecco, questa è una cosa che dobbiamo ricordarci tutti. Allora, sentiamo che cosa ha detto Attilio Befera alla conferenza stampa che è avvenuta a Genova qualche giorno fa proprio su questi temi. I dipendenti di Equitalia hanno subito 270 atti di intimidazione, hanno tentato di uccidere il direttore generale, una persona è entrata con una pistola dentro un ufficio dell'Agenzia di Entrate. Capite che c'è una situazione che non è diversa dagli altri paesi, perché c'è una situazione di difficoltà, o pensate che noi siamo cattivi? Se voi pensate, scriva pure che noi siamo cattivi. Io dico, io applico delle leggi, io, i miei, stiamo attentando di applicarle con la massima prudenza e la massima attenzione, ma oramai in Italia se si invia una cartella di pagamento ad un cittadino che non ha pagato le imposte, che la cartella viene dopo che non hai pagato le imposte, non prima, è un atto di vessazione. Quindi chiedo di poter applicare, alleggeriamo le norme, modifichiamo le norme, ben venga. La compensazione dei crediti d'imposta, dei crediti commerciali con i debiti d'imposta che mettono in difficoltà molte imprese italiane, è una norma proposta dall'Agenzia delle Entrate 2 anni fa e approvata dal Parlamento 2 anni fa e non ancora attuata. Non è soltanto un problema fiscale, strettamente fiscale, di Equitalia, no? C'è un problema italiano di pressione fiscale, di difficoltà, non sono io a doverla descrivere, penso che la sappiate. Io do la massima collaborazione a cittadini, imprese, alla regione, al governo, a tutti per risolvere questi problemi. Allora, ripeto, massima totale solidarietà a Befera e ai suoi, però noi qui abbiamo migliaia di lettere che testimoniano tutte cose come queste, ne scelgo solo alcune a caso per fare capire, poi andiamo al nostro ospite a cui invece ci affidiamo poi alla sua scienza e al suo equilibrio rispetto al mio noto travalicare nella passione. Prendo 2 letterine, una di Giorgio Del Franco, che ci segnala una sentenza che ci allega, la sentenza 56-43-12 della Commissione Tributaria Regionale di Milano, e questa sentenza dichiara l'inesistenza, non la semplice nullità, l'inesistenza della notifica di una cartella esattoriale notificata direttamente da Equitalia a mezzo posta, cioè senza avvalersi dell'ausilio dei soggetti espressamente indicati dalla legge, l'articolo 26, primo comma, bla bla bla. È evidente che se la decisione dovesse essere confermata dalla Cassazione, diamo per scontato che ci sarà il ricorso in Cassazione dell'Agenzia delle Entrate di Equitalia, se questa sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Milano fosse confermata, l'intero sistema delle notifiche ne resterebbe travolto, perché Equitalia, che è una società commerciale di diritto privato a scopo di lucro non abilitata da alcuna norma alla notifica diretta delle cartelle esattoriali, di norma notifica invece le cartelle spedendole per posta, come se si trattasse di una semplice raccomandata. Quindi se cade questo, capite che cade il sistema. Certo, poi magari interverrebbe il governo, come fece a suo tempo Prodi, continua nella sua lettera Giorgio Del Franco, che sanò le cartelle prive dell'indicazione del responsabile, ma insomma qualche speranza c'è. Per completezza preciso che i 2 ricorsi in Cassazione di cui sopra riguardano principalmente asseriti omessi versamenti dell'ottenuto da conto, il cui pagamento risulta invece dal mio cassetto fiscale che riflette i dati in possesso dell'amministrazione. Addirittura la prima cartella era di 1.220.000 euro, perché elaborando il modello 770 da me inviato, il sistema dell'agenzia aveva aggiunto 2 cifre ai valori dichiarati e quindi secondo l'agenzia avrei dovuto pagare le ritenute per 200 dipendenti, quanto invece ne ho solo 2. Ma com'è possibile, dissi io, ho un ufficio di 80 metri quadrati, non saprei neanche dove metterle tutti questi impiegati, un bagno solo. Ebbene, nonostante l'invio all'ufficio di copiosa documentazione a discarico, compresa la piantina del mio studio, dovetti fare ricorso in commissione tributaria provinciale. Alla prima udienza il funzionario dell'agenzia, al quale il presidente della commissione si era rivolto affinché replicasse alle mie osservazioni, sbottò in un fragoroso: deve darci i soldi, ha capito? Deve darci i soldi. Ebbene, questa risposta mi fece tornare alla mente le parole rivoltemi da un balordo che tentò di rapinarmi per strada qualche tempo fa. Quindi mi permetto paradossalmente di sentire dalla sua opinione, secondo cui saremo in presenza, caro genio, di uno Stato ladro, perché il comportamento di questo Stato configura reati ben più gravi: estorsione, associazione a delinquere, abuso d'ufficio, omissione d'atti di ufficio. Con i più cordiali saluti, Giorgio Del Franco. E mi spiace, ma io la penso come Giorgio Del Franco. Cosa devo fare? Devo tacere perché altrimenti diranno che sono con le Brigate Rosse e con gli anarchici insurrezionalisti? Io naturalmente voglio sperare di no, perché di fronte a tutte queste lettere noi non sappiamo che cosa dire. Questo è il piccolo problema. Che cosa diciamo? Che si inventano tutto? Che sentiamo quest'altra, per esempio, che parla a nome di un cliente che sta in Gran Bretagna, poi dite perché le imprese fuggono dall'Italia. Qui è Stefano che ci scrive: vi giro il contenuto di una mail pervenutaci da un cliente britannico che attende dal 2008 il rimborso di un credito IVA. 6 mesi fa abbiamo ricevuto da Pescara, 2008, siamo al 2012. 6 mesi fa abbiamo ricevuto da Pescara, prosegue Stefano, comunicazione che il rimborso è pronto al pagamento, e abbiamo avuto la malaugurata idea di comunicarlo al cliente con toni giubilanti. Dopo 6 mesi i quattrini non sono arrivati e il cliente mi ha scritto questo dopo la mia ennesima conferma che il rimborso è pronto. Vi traduco dall'inglese la lettera del cliente britannico. Caro Stefano, grazie per averci confermato che l'ARS, l'Agenzia delle Entrate, ha accettato finalmente di mettere in pagamento il nostro credito. Ma i mesi sono passati invano. Possibile che non ci sia una maniera di forzare l'amministrazione tributaria italiana davvero a compiere il rimborso a cui abbiamo diritto? Come è possibile che sospengano unilateralmente, dopo aver comunicato l'esecutività del versamento e il versamento stesso? Ma che paese è diventata l'Italia? Capisco se l'Italia fosse un piccolo paese in via di sviluppo e fosse costretto a sospendere i pagamenti, può capitare nei posti meno noti dell'Africa, c'è scritto esattamente così. Ma come membro di grande rilievo dell'Unione Europea, questo modo di fare mi sembra totalmente oltraggioso, continua il cliente britannico. Naturalmente cose come queste ci hanno fatto profondamente rivedere la politica della continuazione dei nostri affari in Italia. Saluti, eccetera. Cosa si risponde a questa gente che si sta inventando tutto? Si sta inventando tutto? Non credo, mi pare un po' difficile ovviamente dirgli che si sta inventando tutto. Allora, chiediamo a questo punto al professor Giuseppe Marino, che insegna il diritto tributario alla Statale di Milano, è autore di bellissimi libri come Paradisi e Paradossi Fiscali, prima di entrare un po' nel merito di quello che può cambiare o non cambiare, un primo giudizio generale su questa, su come la vede lui, sull'atteggiamento che si è sempre più manifestato da parte di milioni di contribuenti italiani verso l'apparato delle entrate, e su questa risposta iniziale che mi pare sia un po' fallita, ma questa è la mia impressione, che è venuta nei primi mesi del governo Monti dicendo: ragazzi, noi abbiamo cambiato l'aria, adesso le tasse si pagano, adesso finalmente gli italiani li stiamo educando, per così dire. Ma come li educhi con queste procedure, con questa asimmetricità di principi per cui lo Stato ha sempre ragione? Li educhi? Li diseduchi? Questo è il problema. Allora, io penso che le cose stiano un po' cambiando, tant'è che Monti deve andare adesso a coprire quelli dell'Agenzia delle Entrate, questa maniera un po' algida e tronfia di dare ragione a cose dell'ordinamento indifendibile mi sembra che stia arretrando. Lo stesso Befera dice: guardate che molte norme la politica non le cambia e non ne sono colpevole io. Però il professor Marino, da questo punto di vista, che impressione ha da osservatore del rapporto pubblico, del termometro pubblico tra apparato delle entrate nel nostro paese e contribuenti? Ma io devo dire la verità, sarei molto meno indulgente delle parole di solidarietà che ho sentito pronunciare dall'amico Oscar poc'anzi nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, perché purtroppo chi semina vento raccoglie sempre tempesta, e quindi il dottor Befera, a cui comunque va tutta la mia stima come uomo di governo e quindi anche, diciamo così, uomo abituato a esercitare le leve del potere, è purtroppo una reprimenda per la situazione che attualmente viviamo, dovrò farla. Nel senso che oggi l'agenzia sembra la vittima del sistema, ma non dimentichiamoci che tutto il sistema tributario a partire dalla più recente riforma del ministro Tremonti, è sempre stata supportata dall'Agenzia delle Entrate. Quando il governo Monti si è insediato, i maggiori poteri di invasività che l'Agenzia ha ricevuto, mi riferisco alle indagini bancarie, che si badi bene, già potevano essere fatte a partire dal 2006 attraverso il sistema Serpico, ma siccome non bastava poter ricevere soltanto i saldi degli estratti conto, l'Agenzia ha chiesto di poter ricevere addirittura tutti gli analitici dei conti correnti, come quando noi ci colleghiamo sull'home banking e vediamo il nostro estratto conto, perché altrimenti non riusciva a vedere, a leggere e a esaminare bene le movimentazioni. Quindi a questa invasività richiesta e ottenuta dall'Agenzia per cercare di contrastare i famosi 120 miliardi annui di evasione fiscale, e portando a casa, se va bene, 10 miliardi, che rappresentano meno del 10% annuo di raccolta, probabilmente l'Agenzia deve fare i conti con questa amara realtà. Ha chiesto tanti poteri che sta esercitando in forma a volte anche sviata, eccessiva, quindi andando nell'abuso del potere, per raccogliere molto poco rispetto a quello che gli stessi italiani speravano potesse raccogliere. Saremo sempre punto e da capo, quindi io vedo assolutamente tempi non grigi, neri da questo punto di vista, perché c'è uno scollamento tra quello che l'Agenzia ha chiesto in termini di poteri e quello che l'Agenzia riuscirà a raccogliere in termini di gettito. Eccoci tornati in studio, ci contavo ed è avvenuto, dicendo che questa volta rifiuto la formula con lo Stato, perché evitare che altrimenti mi si dica che sono con le BR, immaginavo che molti iniziassero a dire che Gianni non mi deve cacciare da Radio 24. Molti sostengono che io avrei strisciato come un lurido verme ai piedi di Berlusconi e lo faccio solo perché non c'è più Berlusconi. Lì non ho più niente da dire, perché vi siete persi i mesi in cui tutti i giorni invece arrivavano gli insulti di quelli di destra che dicevano che, siccome dicevo che il governo Berlusconi aveva perso ogni agibilità internazionale, doveva solo fare il favore di andarsene dopo anni e anni di promesse non mantenute. Evidentemente stavate sentendo la radio Ondea Rossa e fate come cazzo volete, non è mica questo il problema mio. Detto questo, invece, c'è la delicatezza, e su questo io invito tutti a esprimere con grande libertà quello che pensano, perché io capisco che il ragionamento che dice io continuerò a criticare durissimamente lo Stato e non mi faccio tacitare dal fatto che vi siano criminali che prendono le armi, è un ragionamento che a molti legalitari e a molte persone che dicono non si può però eccedere e travalicare, anche di fronte a enormi problemi evidenti nell'apparato pubblico, ecco, io capisco che questo è un problema serio. Esattamente lo capisco, perché all'epoca in cui Sciascia disse con la stagione con BR, io ero in un'organizzazione che si schierò nel dibattito pubblico dicendo Sciascia ha torto, bisogna stare con lo Stato. Il problema è che bisogna stare con lo Stato quando cadono vittime i suoi servitori sotto le pallottole, quando si rapiscono i presidenti del Consiglio, ma a prescindere dal giudizio della sua politica. Qui non stiamo parlando di questo. Come facciamo a essere con lo Stato quando le procedure con cui lo Stato escute e prende per sé sono la violazione di quello che c'è scritto nella Costituzione, nello Statuto del Contribuente, e quando la simmetria regola sovrana, per cui quello che vige nei confronti del cittadino privato verso lo Stato e verso i suoi obblighi è negato totalmente nel modo in cui lo Stato si comporta nei nostri confronti? Qui non si tratta più di fare una scelta, per così dire, di codice penale. Qui è la compressione di un diritto naturale che viene prima di ogni pretesa possibile dell'ordinamento. Quindi io mi rendo conto che nel dirvi questa volta contro lo Stato, le BR in carcere per quello che mi riguarda, perché violano il codice penale, noi non intendiamo violare il codice penale, noi intendiamo semplicemente fare una polemica durissima perché cambi questa roba che uccide l'impresa e uccide il lavoro dipendente insieme. Questa è la mia opinione questa volta, liberi poi tutti di pensarla come credete. Torniamo adesso al nostro professore, ma un'altra lettera, tanto per gradire, per capire quanto questo tema è molto ricorrente nel nelle migliaia di lettere che ci sono arrivate qua all'indirizzo che abbiamo aperto, disperatimai@radio24.it. Questa è Paolo Salinaro che ci scrive, piccolo imprenditore della provincia di Prato, nota alle cronache per la massiccia presenza di extracomunitari in prevalenza cinese. Negli ultimi 4 anni, ci scrive, come tanti colleghi, ho subito cali di fatturato in misura del 15-25% annuo. Come potete immaginare, sono stato costretto a malincuore a ristrutturare gradualmente la mia piccola azienda tessile. Nello stesso tempo, oltre ad aver subito perdere il fatturato, ho anche subito perdite date da mancati incassi, per i quali, oltre ad aver corrisposto l'IVA, ho dovuto pagarci anche le tasse. Tutto questo mi ha costretto a indebitarmi con le banche usuraie e sono stato costretto a non pagare regolarmente una parte di IVA, IRPEF presunta e contributi previdenziali. Come è noto, questi mancati pagamenti comportano il ricevimento di cartelle Equitalia maggiorate di oltre il 50%, oltre agli ulteriori interessi calcolati anche sugli interessi precedenti, che portano a dover rimborsare allo Stato, oltre al capitale originario, più del 60% tra sanzioni, aggio, interessi, che calcolati in 72 rate mensili sviluppano un tasso annuo del 16,5%. Di qui la mia proposta: dato che Equitalia è una possente macchina da guerra, eccetera, eccetera, eccetera, propongo che all'interno della struttura Equitalia venga creata Equimpresa e che possa operare a favore delle imprese con gli stessi strumenti di Equitalia, comprese le sanzioni e gli interessi che applica Equitalia, in modo che anche le piccole imprese oneste possano avere uno strumento che gli garantisca che gli incassi siano essi dati da aziende private che da enti pubblici. Allora, questa roba qua è semplicemente, come vedete, l'ammissione di difficoltà che hanno creato un rapporto che è andato in torto da parte dell'imprenditore della sua impresa nei confronti dell'amministrazione tributaria, ma spiegando il perché, non perché si era invasori incalliti, e a fronte del fatto che però c'è una simmetria, lo Stato naturalmente ti applica interessi e pretende tempi e non discrimina tra le ragioni che ti hanno portato lì, ma per sé invece dice che naturalmente i soldi per pagarti non ce l'ha, che tu devi capire, perché altrimenti fa deficit, debito pubblico. È falso oltre a tutto questo, perché con cassa depositi e prestiti non farebbe deficit il debito pubblico. E quindi Paolo Salinaro, che naturalmente immagino ai trenariciuti, filo fiscalisti e filo statalisti, vi farà dire: ma stai zitto evasore, come tante lettere ci dicono, ma perché siete così solidali con questi imprenditori, ma che si impicchino, per anni hanno vessato i loro dipendenti, c'è qualcuno che reagisce così? Potreste pensare che questo Paolo Salinaro quindi ci scrive da incallito evasore. Paolo Salinaro ci spiega semplicemente a che cosa può portare la simmetria del nostro ordinamento fiscale, cioè appunto far chiudere le imprese, mentre lo Stato naturalmente applica a sé quella discrezionalità che non consente invece nel rapporto tra contribuente e se stesso. Professor Marino, da questo punto di vista, lei prima ha dato un giudizio tosto, ma che cosa in realtà, per esperienza, ci potremmo attendere davvero? Quale significativo cambiamento che intervenga anche in questo rapporto così perturbato oramai, così pregiudicato tra contribuenti e apparato tributario dello Stato, secondo lei questo governo, per come lo conosce e come lo apprezza, sarebbe in grado forse di introdurre per modificare meglio questa riaccia che tira? No, io non vedo, devo dire, non nutro molte speranze. Oggi il rapporto fisco-contribuente è un rapporto del tipo: ciò che è mio e ciò che è tuo è mio, e non c'è verso di poterlo cambiare, data anche l'emergenza delle casse dello Stato. Quindi io da questo punto di vista dico semplicemente che bisogna ancora stringere i denti. È un rapporto che preveda la possibilità delle compensazioni e da escludersi, perché attraverso le compensazioni si alimentano poi le erosioni del gettito erariale. Probabilmente l'agenzia dovrebbe, certamente più che Equitalia, perché facciamo una distinzione tra agenzia e Equitalia, poverina, è il braccio armato dell'agenzia delle entrate, è quella che meccanicamente poi va e certo fa il fronting rispetto al contribuente, ma la mente è l'agenzia. È all'agenzia che io rimprovero la mancanza di progettualità nel cambiare un sistema tributario che oggi è un sistema farraginoso e artigianale, che non sta in piedi rispetto alla massa dei contribuenti, con la polverizzazione di controlli che vanno ad acchiappare, se va bene, 50.000 euro a contribuente, perché di questo stiamo parlando. Anche quando ascoltavo la lettera del piccolo imprenditore, quando si manda una pattuglia dell'Agenzia delle Entrate, una pattuglia di verificatori, che costano soltanto per l'uscita e per quel singolo controllo almeno 60-70 mila euro a uscita, tra stipendi e compagnia cantante, per andare a recuperare che cosa? se va bene 100.000 euro e quindi significa un margine di guadagno di 30.000 euro, non sta in piedi. Befera sbaglia perché ha voluto grandi poteri e li ha anche ottenuti, ma non ha messo sul tavolo dei progetti per dire signori, l'evasione fiscale è un sintomo, non è la causa dei mali di questo paese, e quindi dobbiamo noi andare alla ricerca, o meglio preghiamo il governo, dei tecnici, di individuare quali siano le cause dell'evasione fiscale, perché non è che l'evasione è il problema è una polverizzazione, secondo me, della economia italiana, fatta di padroncini, di 5 milioni e mezzo di partite IVA, tra cui quella evidentemente del piccolo imprenditore che giustamente nel suo piccolo si lamenta, che però non ci porta da nessuna parte, ingovernabile da qualunque sistema attuale di diritto tributario. Purtroppo se non si riesce a comprendere questo e quindi a guardare, ahimè, un po' lungo e a stringere i denti, non si riuscirà mai a risolvere il problema dell'evasione fiscale. Allora, qualche telefonata a Paolo dalla provincia di Bari, prego, rapido se ci riesce. Buongiorno, buongiorno, io sono un piccolo imprenditore, o meglio quello che nella società viene considerato oggi il delinquente del sistema. Mi vergogno di fare questo mestiere, purtroppo sto cercando di dire ai miei figli di andare a fare i dipendenti pubblici, perché oggi fare imprenditore significa essere dei delinquenti. Il sistema dell'Italia in questo momento, io vengo da una famiglia di dipendenti, di operai, ho avuto la fortuna di prendere un treno e di diventare un imprenditore, di mettere su una bella struttura. Io ricordo mio padre, da operaio, mi diceva: l'Italia è una grande famiglia dove il governo è il papà e noi siamo i figli che dobbiamo aiutare questo papà a gestire questa nazione. La verità è che in questo momento noi abbiamo un papà drogato. Noi non dobbiamo in questo momento valutare quello che è Equitalia, quello che è. Noi abbiamo un sistema che sta andando a rotoli. Io ritengo che noi in questo momento siamo in una guerra civile bianca. Possibile che non riusciamo a capire che Equitalia... A me ha mandato una cartella personale, non sull'azienda, perché sull'azienda ne potremmo stare ore a parlare. A me, a livello personale, mi ha mandato una cartella esattoriale per delle multe del 98 di una macchina che io ho venduto nel 97. Dove la multa originariamente era di 36 euro, mi è arrivata di 840 euro. Quando io sono andato a chiedere spiegazioni, mi hanno detto: no, non è in prescrizione perché è stata notificata. Ma chi? Come? No, lei deve pagare e poi verificare. Ma come faccio io a pagare se voi non mi dimostrate che il debito è mio? Se io vi ho documentato che la macchina è stata venduta un anno prima. Paolo, stop, perché abbiamo le informazioni sulla circolazione stradale. Il papà è drogato, eh sì, papà è diventato tassicodipendente, dobbiamo obbligarlo a smettere, questa è la mia idea, sono d'accordo con Paolo. E mentre torna i Doors, spread stabilmente sopra 450, su questo tema, su cui continueremo a battere, è inutile che pensate che io possa smettere, finché sono qua ovviamente, non so dirvi per quanto, ancora Enzo da Napoli, prego Enzo, qual è la tua esperienza? Le volevo dire che io nel 2001 ho avuto una verifica e ho letto la circolare dell'Agenzia delle Entrate in cui diceva: quando voi fate un accesso dovete aggredire il cliente di sorpresa, dovete sorprenderlo e acquisire tutto ciò che è possibile acquisire in modo che lui non si possa difendere. Cioè, se no, naturalmente aggredire non c'era scritto, c'è scritto che la procedura deve essere espletata al fine ovviamente di cogliere il più possibile inaspettatamente. No, aggredire non c'è scritto. Infatti. E poi in effetti in questa verifica loro, il capo verifica mi disse: mi raccomando, facci fare una bella figura, perché la signora che fa la verifica è alla prima esperienza e deve portare in ufficio un bel risultato. Certo. E mi hanno fatto una bella multa di 200.000 euro. Io dopo 3 mesi ho chiuso l'azienda, ho licenziato i 6 dipendenti che tenevo tutti regolari, perché loro si sono meravigliati anche che i dipendenti erano a posto. Ah, però, diciamo la verità, ma lo studio di settore comunque è una cosa sballata. Sì, lo so, è come noi, pure noi siamo soggetti. Quando si dice facilmente, perché come può un imprenditore guadagnare più del suo impiegato? Infatti, viene a vedere come si può, facendo gli assegni postadati, certo, facendo i pagamenti a un anno. Però Enzo, la soddisfazione licenziando 6 dipendenti, di far fare bella figura però alla funzionaria che era appena arrivata, almeno questa te la sei presa, perché gli hai fatto fare una bella figura, certo un po' cara, visto che hai chiuso con 6 dipendenti. tutti, però ragazzi, non vorrei che voi pensaste a casa che sono delle voci di attori che noi prendiamo. Questa è gente che telefona e queste storie sono le storie vere dell'Italia, perché ci sono anche alcuni di voi così ideologizzatamente statalisti, così pronti a perire sul fuoco perché Monti ha finalmente intrapreso la santa battaglia contro gli evasori fiscali, gli anomici del patto sociale italiano, questi degenerati che esisterebbero solo nel nostro paese, no? Che andrebbero rieducati, li mettiamo nei campi con i tecnici che ci fanno da professori e ci dicono il 60% del PIL legale se lo pappa lo Stato, perché attualmente è così, questa è la spesa, la percentuale sul PIL dell'Italia legale senza il 17% di chi non le paga, e questa non è una situazione paradossalmente estrema che non esiste in nessun altro paese del mondo, invece è così e vogliono farvi credere che non sia così e che il problema sono gli italiani che le tasse non le pagano, non loro che rubano il 60% e con norme pervasivissime impediscono anche al 40% il resto del PIL legale di fare crescere abbastanza l'Italia. Questa è la mia modestissima, come vedete, equilibratissima analisi. Sentiamo come la pensa Alberto da Roma. Prego Alberto. Buongiorno. Allora, intanto la prego di continuare a fare questa trasmissione perché è veramente importante. Non decido io, Alberto, no, quindi se prevarranno coloro che pensano che sia un leccapiedi di altri, ovviamente non mi ascolterete più, ma qui non lo decido io. Comunque, andiamo alla tua telefonata. Allora, la mia telefonata è questa. Io ho affittato in un appartamento che ho in proprietà al Ministero dell'Interno e come me ce ne sono molte altre persone. Quindi hai lo Stato come inquilino? Esattamente, e facciamo contratto di anno in anno. E ora, che tipo di inquilino è lo Stato? È un inquilino che è moroso di 7 mesi, quindi praticamente io già l'anno scorso in questo periodo ho chiesto se potevo convertire il credito in un credito fiscale e mi è stato risposto di no. Ho chiesto se potevo convertire questo credito per poterlo cedere a un istituto di credito in modo tale da poter sempre utilizzare questo denaro per pagare le tasse, mi è stato risposto di no. Ho cercato di segnalare questa cosa ad una commissione del Ministero perché potesse inserirla in una qualche maniera, valutarla per capire se questo io come privato posso essere considerato come un'azienda. Non ho ancora avuto nessuna risposta, ma credo che sarà difficile. E la morale è questa, che se io praticamente non pago le rate residue del mutuo, vengo segnalato e devo pagare gli interessi di mora e quant'altro. Se invece lui ritarda nel pagamento, succede esattamente niente. Questo è quanto. Bene Alberto, anche tu una bella pietra, naturalmente morale, civile, non una pietra fisica, senza alcuna violenza, per però abbattere le ladrerie dei ladri di Stato che rendono ladro lo Stato e lo rendono stupido prima che ladro e ladro prima che stupido. Un'altra lettera al volo, questa è Mario. Mario mi ha preso alla lettera, ha votato con i piedi. Mario ha 40 anni, è una città Keystone, però non ce l'ha più in Italia perché lavorando nel campo dell'informatica come consulente nel 96, aveva sempre lavorato, ci scrive per grandi aziende, aveva la fortuna di seguire progetti e contratti importanti. I problemi sono iniziati però quando l'azienda per cui lavoravo come dipendente entrava in difficoltà, era acquisita da una grande società di consulenza e quindi le politiche della nuova azienda si fanno sentire presto, sono troppo costoso, troppo qualificato per loro e quindi se ne va. E allora cosa decide di fare? Decide di fare, allora abitavo a Milano, dice, a 60 km c'è la Svizzera e la Svizzera mi ha salvato. Mi trasferisco in Ticino, trovo lavoro, mi pagano pure bene, 4 anni fa faccio il salto, apro la mia società. Oggi ho una società che va benone, 6 dipendenti, uno Stato che mi chiede il 25% di tasse sugli utili, ma solo sull'incassato, non sul fatturato come in Italia. Pago i miei dipendenti molto bene, distribuisco la loro parte gli utili, eccetera, eccetera. In Italia non potrei farlo. Ecco. Mario ha votato con i piedi, non molti possono farlo, a noi tocca invece cambiare lo Stato ladro dal di dentro e a me tocca ringraziare il professor Giuseppe Marino che, come avete sentito, era anche più estremista di me. Una lotta senza condizioni contro lo Stato ladro. A domani!